24 mattino estate con Irene Zerbini. Ben ritrovati, buona giornata, buon lavoro, buona lettura se ancora siete in vacanza, se avete tempo a disposizione, perché oggi parleremo proprio di libri. I lettori più forti, secondo i dati Istat, è sorprendente, ma sono i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Questo significa, naturalmente, allo stesso tempo, che il resto della popolazione legge meno dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Anzi, nel segmento tra i 45 e i 49 anni, 2 su 3 dichiarano di non aver mai preso in mano un libro, come ha scritto ieri un articolo di Repubblica che ha preso in esame la situazione. Oggi noi ci fermeremo su questa strana passione dei ragazzi, che poi non si traduce in realtà nelle aule scolastiche in rendimenti particolari quando si affrontano i classici. Tra i giovani vanno per la maggiore libri che non siano stati suggeriti dai docenti. Significa forse che l'abbinamento obbligo e lettura rischia poi di far marchiare un libro nella categoria di mattone, per cui non lo si apre più, non lo si scopre più, non lo si gradisce, non lo si gusta, e magari a volte poi ci si ritrova anni dopo scoprendolo, quando per curiosità lo si è aperto. E proprio questo vi abbiamo domandato sul sondaggio di Radio 24, oggi www.radio24.it. Avete mai riletto un libro che odiavate a scuola? E avrete anche la possibilità durante Bianco Nero di suggerire al Festival della Letteratura di Mantova quest'anno quale libro stampare in 20-30 mila copie. Devono ancora decidere il titolo, è un esperimento che fanno ogni anno. Ne discuteremo a Bianco Nero alle 8:30. Prima però ci concentriamo su un'eccezione in Europa, vale a dire la Germania. Buongiorno e benvenuto ai miei ospiti, al console generale aggiunto in Italia Bernard Edward Auer. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno signora Zerbini. E buongiorno a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Berlino. Buongiorno a voi. Abbiamo letto degli ordini record in Germania, gli operai richiamati dalle ferie. Beda, cosa è successo? Ma è successo che la Germania in questo momento sta approfittando più di altri paesi della crescita economica nei paesi emergenti. La Germania ha negli ultimi 10 anni attraversato 2 grandi ristrutturazioni. La prima ristrutturazione all'inizio del decennio è stata una ristrutturazione sui costi, con una forte moderazione salariale da parte dei sindacati e con un certo numero di tagli e di ristrutturazioni aziendali. Poi nella seconda parte del decennio l'economia nel suo complesso si è proiettata a livello internazionale, non più soltanto mettendo radice sui mercati più tradizionali delle imprese tedesche, penso in particolare ai mercati europei o ai mercati americani, ha messo radice in modo matematico, in modo costante, su tutti i mercati cosiddetti emergenti, in Asia, in America Latina e anche in Africa. Con il risultato che oggi le imprese tedesche hanno maggiore facilità di altre imprese europee ad esportare in questi mercati. Oltretutto molti di questi mercati, penso in particolare alla Cina, all'India, al Brasile o anche al Sudafrica, sono mercati che stanno attraversando una fortissima modernizzazione e l'emergere forte di una classe media. Questa classe media acquista inevitabilmente beni tradizionalmente tedeschi, automobili, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e via di seguito. E quindi la Germania non si è fatta scappare l'occasione. Tu hai parlato di questi mercati emergenti che soprattutto sono la destinazione finale dell'export tedesco. Voglio chiedere allora al console in Italia, questa Germania che tornerà forse a diventare locomotiva d'Europa, anche questo è da discutere, e avrà delle conseguenze sull'import-export dei nostri due paesi? Ma sicuramente avrà delle conseguenze. L'industria tedesca e quella italiana sono fortemente integrate, cioè c'è una presenza massiccia di imprese tedesche in Italia e soprattutto nel nord Italia che hanno dei legami strettissimi con partner italiani, cioè quando crescono le esportazioni tedesche significa che cresce anche la domanda di parti, di rifornimenti da parte da partner italiani che sono indispensabili per il prodotto finale che viene esportato sotto un marchio tedesco, ma che in realtà è un prodotto congiunto italo-tedesco, o naturalmente si dà lo stesso caso anche in altri paesi, ma in Italia particolarmente, cioè molti prodotti che vengono venduti in Brasile o in Cina come prodotti tedeschi non sono 100% tedeschi, ma c'è una parte italiana e questo si farà risentire anche nelle statistiche italiane. Beh, questo è decisamente interessante dal nostro punto di vista. Le chiedo, console, gli imprenditori tedeschi, o meglio le associazioni delle piccole e medie imprese, hanno chiesto ai loro dipendenti di rinunciare a un terzo delle ferie annuali, ad alcuni, ritornare prima, mettere da parte due delle sei settimane, in alcuni casi una settimana, per accumulare una sorta di credito di pacchetto vacanze da consumare in seguito, perché adesso bisogna soddisfare gli ordini. Come hanno accolto i lavoratori, il sindacato, la società civile questa richiesta? Io credo che qui si deve differenziare due aspetti dello stesso problema. L'uno è la congiuntura favorevole attuale che richiede che per un momento di durazione ancora indeterminata le industrie tedesche hanno bisogno di più forza di lavoro per rispondere alla domanda cresciuta internazionalmente. Questo si fa soprattutto riducendo le riduzioni di orario che si erano imposte durante l'epoca della crisi, che adesso stanno sparendo, e persino si fanno orari extra eccetera in alcuni settori dell'industria. D'altra parte c'è il problema a lungo termine dello svantaggio demografico che colpisce l'industria tedesca con particolare forza, cioè si prevede che in un futuro già abbastanza prossimo l'industria tedesca non potrà più affrontare la domanda internazionale con la forza lavorativa disponibile nelle condizioni attuali, cioè i tedeschi per rispondere alla domanda crescente o una domanda anche costante dovranno lavorare di più. Per questo si discute sia di ritardare l'età della pensione sia di ridurre le vacanze per garantire a lungo termine la competitività dell'industria o dell'economia in genere. Beda, evidentemente questo non riscontra un entusiasmo generalizzato tra i sindacati. Beda Romano, nonostante la crisi, la Germania dunque potrebbe chiudere il 2010 con la disoccupazione in netto calo, 3.200.000, queste le cifre almeno date dalla Camera del Commercio dell'Industria tedesca, quindi 250.000 in meno rispetto all'anno precedente, e questi sono i numeri. Ma tu che vivi in Germania, questo tipo di situazione di congiuntura favorevole come viene vissuta, come viene avvertita nella vita quotidiana? C'è ottimismo? Sono cambiati i discorsi tra la gente? Scattaci una fotografia di questa Germania del boom. Sì, no, non credo che sia io non percepisco un cambiamento di filosofia di vita, anche perché per certi versi non bisogna dimenticare che la crescita che stiamo registrando in questo momento è in realtà per molti versi il recupero dopo il fortissimo crollo del 2009, quando l'economia tedesca si era contratta di circa il 5%. Credo però di avvertire negli ultimi anni una fortissima proiezione internazionale del paese. I tedeschi hanno sempre viaggiato molto, fa parte della loro natura, fa parte della loro economia, ma ho percepito negli ultimi anni come le abitudini siano cambiate anche su questo fronte. Prima si viaggiava in Europa e negli Stati Uniti, oggi molte delle persone che si incontrano durante la vita lavorativa o anche la sera a cena a casa di amici hanno viaggiato in Cina, in India, nel sud-est asiatico, in America Latina. Perché? Perché il paese si sta proiettando su quei mercati e non soltanto con le imprese, anche con le università, per esempio. Molte università tedesche hanno aperto antenne o facoltà nei paesi più strambi del mondo e fa sì che a viaggiare non siano più soltanto gli imprenditori o i rappresentanti di commercio, ma anche i professori universitari. E quindi c'è un'apertura mentale, una dovuta, forse generata all'inizio dallo scambio commerciale, ma che porta a questi fenomeni. Grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Berlino, e grazie a Bernard Auer, il responsabile del consolato tedesco in Italia. Da quanti giorni è in Italia, console? Una decina di giorni, sono del tutto nuovo qui in sede e sono contentissimo di essere arrivato in Italia. Complimenti per la lingua. Grazie. Per come padroneggia l'italiano e naturalmente benvenuto e buon lavoro. Grazie, grazie e buona giornata, grazie di avermi dato l'occasione di parlare. Avremo la possibilità non solo di parlare ma anche di leggere, di pensare a cosa vorremmo leggere, a cosa abbiamo letto, forse anche un libro che a scuola non avremmo mai apprezzato in quanto tale, perché veniva abbinato nei nostri schemi mentali semplicemente all'obbligo di lettura, al progetto da fare, al compito da consegnare. Sembra questa la realtà che caratterizza anche i giovani italiani di oggi, se è vero che dagli 11 ai 14 anni, dagli 11 ai 17 anni in generale, secondo i dati Istat, ma con un picco a 14 anni, sono i più avidi lettori, non però dei titoli che impone loro il docente. Ne parleremo a Bianco Nero alle 8.30, intanto potete votare su www.radio24.it. 32 minuti dopo le 7, ancora buona giornata da Irene Zerbini, il momento della rassegna stampa. Ciao a Deborah Rosciani. Buongiorno. E in primo piano questa mattina ancora la vicenda Fiat. Ancora la vicenda Fiat, ancora altri strappi politici, questa volta parla su Silvio Berlusconi, Famiglia Cristiana, adesso lo leggeremo dai giornali, ma mi ha colpito dalle pagine di molti quotidiani questa mattina tutta una serie di esami che vengono fatti sulle donne. Ritorniamo sempre sugli stessi argomenti, Irene, però c'è una cura di bellezza che sarebbe stata scoperta in America. L'acqua fa dimagrire, due bicchieri prima del pasto permetterebbero di perdere in un regime di dieta quasi 2,5 kg in più di chi non beve. Ti piace questa dieta? Ti convince per niente? Non te ne può fregare di meno, come scusa, si suol dire? L'hai detto tu. Data la forma smagliante che hai, naturalmente. No, vedo queste continui inviti al dimagrire, alla dieta, un po' come una tirannia. Poi certo, trovo finite che le vacanze, molta gente naturale magra sia comunque non attraente, cioè se hai la vivacità negli occhi di un pesce lesso puoi tenerti anche la pancia piatta. Questo è il mio personalissimo parere, che io sposo completamente. Ma nel frattempo c'è anche la nuova Miss Universo, che è una venezuelana, no, è una messicana bellissima e more. Carlo Rossella oggi sulla stampa dice: è finita la stagione delle bionde. Questo tema t'appassiona? No, per il nostro colore dei capelli neanche quello. Andiamo alla rassegna stampa che è meglio. Ciao Deborah, ti dopo ascolteremo con estremo piacere. In primo piano. E sì, lasciamo le frivolezze per andare invece ai temi più importanti che oggi caratterizzano le pagine dei quotidiani, le prime pagine dei quotidiani italiani. E ovviamente, come Irene Zerbini anticipava, come abbiamo anche affrontato e analizzato a lungo nel corso dei nostri giornali radio, nei giornali radio di Radio 24, c'è la vicenda Fiat che ancora fa molto discutere, ma c'è anche un nuovo tema politico. Sono terminati gli insulti, quelli che avevano caratterizzato i rapporti fra Casini e Bossi negli ultimi giorni, ma c'è questa nuova presa di posizione molto forte, molto dirompente di Famiglia Cristiana sull'attività dell'esecutivo, e anche di questa parleremo perché viene riportata e ampiamente commentata stamattina da molti quotidiani. Cominciamo con la stampa questa mattina. Fiat, il tema in primo piano, c'è l'appello del presidente Napolitano: superare quello strappo. Il presidente della Repubblica risponde agli operai, ai tre operai di Melfi reintegrati da un giudice, ma che l'azienda non vuol far ritornare a lavorare. Rammarico, dice il Presidente della Repubblica, per il mancato reintegro, bisogna superare questo grave episodio in attesa di una conclusiva definizione del conflitto in sede giudiziaria, in modo da creare le condizioni per un confronto pacato e serio su questioni di grande rilievo come quelle del futuro dell'attività della maggiore azienda manifatturiera italiana e dell'evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di un'aspra competizione sul mercato globale. Questo è il messaggio di Giorgio Napolitano, che ha espresso rammarico per il mancato reintegro da parte della Fiat dei tre operai di Melfi, e proprio Napolitano ha risposto agli operai di Melfi che avevano scritto al capo dello Stato per chiedere un intervento sulla difficile vertenza che hanno in corso con la casa automobilistica. Anche il ministro Matteoli è intervenuto sul Lingotto: le sentenze vanno rispettate. Sulla Stampa un'intervista al leader della UIL Angeletti: il conflitto, dice, non aiuta. La politica, sempre sulla prima della Stampa: PDL Lega divisi sull'UDC oggi. Lo dicevamo anche nel giornale radio, c'è il vertice decisivo. È stata però, rispetto a questo vertice, una vigilia al veleno. Berlusconi oggi incontra Bossi, un summit, chiamiamolo come vogliamo, al quale parteciperanno anche i ministri Calderoli, Tremonti, Maroni, e che servirà a raggiungere un chiarimento dopo l'apertura del Premier ad un ingresso dell'UDC nella maggioranza. La polemica del giorno però è scatenata dall'editoriale di Famiglia Cristiana. Secondo il settimanale dei Paolini, il mondo cattolico è spaccato in due a causa della discesa in campo del Cavaliere, che distrugge il dissenso. Molto forte la replica, disgustosi. Poi vi darò lettura appunto di qualche dettaglio in più di questo nuovo scontro. L'editoriale della Stampa è affidato all'economista Mario De Aglio. Sui temi della ripresa: era solo un'illusione. Ieri, poi lo vedremo anche da altri giornali, il mercato ha vissuto una giornata molto difficile in seguito alla pubblicazione del dato sul mercato immobiliare americano. La vendita di abitazioni, dice De Aglio, lo ricorda, è precipitata di oltre il 27% nel luglio di quest'anno rispetto ad un anno fa. Questa brutta caduta, nettamente superiore alle previsioni, è dovuta alla scadenza a fine giugno di un bonus fiscale di $8,000 per ogni acquisto di abitazione, e questo ieri ha provocato la caduta della borsa, che in realtà era iniziata già ieri mattina. C'è anche l'effetto super yen, ma lo vedremo da altri giornali. Allora, ancora dalla Stampa, vi leggo rapidamente quello che è successo tra Famiglia Cristiana e Berlusconi. Nella ricostruzione di Francesca Schianchi: in Italia comanda solo lui grazie alla sovranità popolare che finora lo ha votato. Lui è Berlusconi, che con la sua discesa in campo ha spaccato in due il voto cattolico. A criticarlo, in un editoriale di Beppe Del Colle, dal titolo che parafrasa Calvino, il cavaliere rampante, la Costituzione dimezzata, è Famiglia Cristiana. Diffuso ieri, provoca reazioni accese nel Popolo della Libertà, e chissà cosa ne pensa il leader centrista Casini. Una furiosa polemica fra il Popolo della Libertà e una voce del mondo cattolico proprio alla vigilia dell'atteso incontro fra Berlusconi e Bossi, in cui si discute di un allargamento della maggioranza all'UDC. Oggi infatti la mastodontica residenza del Cavaliere sul Lago Maggiore, Villa Camparis, la location di questo secondo vertice chiarificatore dell'estate politica, dopo quello romano di venerdì, da cui sono usciti 5 punti programmatici su cui chiedere la fiducia dei finiani. In discussione temi roventi, ma segna la vigilia questo editoriale di Famiglia Cristiana e il tutti contro del direttore Don Sciortino, appunto. La Costituzione dice la sovranità appartiene al popolo, recita questo editoriale, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Berlusconi si ferma a metà della frase, il resto non gli interessa, è puro formalismo, scrive il settimanale dei Paolini, che critica anche la regola per cui il berlusconismo da una parte promette alla Chiesa di appassionarsi all'embrione e a tutto il resto, ma dall'altra sulla vita quotidiana delle persone non ha esitazioni. Il metodo boffo, chi dissente va distrutto, è fatto apposta. La reazione pesantissima, per voce del sottosegretario Francesco Giro, l'editoriale è una dimostrazione di pornografia politica per la scarsa decenza degli argomenti che vengono proposti. Andiamo alla prima di Repubblica. Il tema tutta pagina in primo piano è Fiat. Napolitano: Fiat rispetti le sentenze. Il Colle risponde agli operai licenziati: episodio grave, superare lo sconto. Ma Repubblica ricorda anche intanto cosa sta accadendo sul mercato, perché le vendite nel settore automobilistico continuano a scendere. In luglio c'è stato un crollo delle vendite del Lingotto del 32%, e si ricorda anche quelle che sono le conseguenze del dato che abbiamo fornito prima sull'andamento del mercato immobiliare americano, la crisi USA trascina le borse al ribasso. I commenti su questi temi, il primo è affidato a Tito Boeri, quegli errori da evitare, e poi a Paolo Griseri, tre nodi di Marchionne. Peraltro Marchionne sarà domani al meeting di Comunione e Liberazione e quindi probabilmente ci sarà modo per molti giornalisti di raggiungerlo e di sentire anche cosa avrà da dire su questa vicenda. Berlusconi, la politica sempre su Repubblica, pressing su Bossi e UDC, Famiglia Cristiana attacca il Premier, i commenti sulle vicende politiche di Carlo Galli, tra trono e altare, alleanza al tramonto, e poi il governo tecnico, l'incubo del Cavaliere. Non abbiamo dato notizie, adesso lo daremo da altri giornali, della strage integralista in Somalia che ha provocato 30 morti. Adesso la vedremo appunto da altri quotidiani, come per esempio il Corriere della Sera, che però mette in primo piano, in realtà non questa storia, la mette piuttosto in basso: terroristi islamici fanno strage di parlamentari a Mogadiscio. In primo piano appunto anche il Corriere della Sera mette la critica di Napolitano alla Fiat, profondo rammarico, bisogna rimettersi ai giudici. Il Corriere intervista sulle vicende Fiat il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. Quella di Marchionne è una scelta coraggiosa, il ministro Gelmini usa parole controcorrente: le sentenze vanno sempre rispettate, ma vanno rispettate, dice, anche le aziende. La Lega pressa Berlusconi, meglio andare a votare, il pezzo di Marco Cremonesi. Oggi il vertice fra Bossi e Berlusconi nella villa del Premier sul Lago Maggiore. La Lega, di fronte al subbuglio della maggioranza, pressa il PDL. Silvio, il bersaglio sei tu, in queste condizioni è meglio andare a votare. La storia con foto in primo piano sul Corriere della Sera è la storia di Marisol, la bimba nata in seguito a questo drammatico incidente stradale in cui è rimasta uccisa la mamma, la ventenne Maria Soraya. Questo incidente stradale dei giorni scorsi nel Comasco, la donna era incinta di 6 mesi, i medici sono riusciti a farla partorire, a far nascere la piccola Marisol, che addirittura adesso sarebbe fuori pericolo di vita, e quindi c'è questa bella notizia che ha veramente commosso un po' tutti nel nostro paese. Il commento che ritorna ancora a campeggiare sulla prima pagina del Corriere della Sera sulla vicenda di Gianna Nannini, rimasta incinta a 54 anni, si pone un po' il problema etico. Maria Luisa Agnese, per l'età appunto in cui questa rockstar ha fatto questa scelta. Allora, andiamo avanti, adesso c'è un'altra inchiesta rapidamente che vi segnalo dal Corriere della Sera sui conti dei comuni. Secondo dati al 2008 della Corte dei Conti, debiti dei comuni italiani ammontano a 62 miliardi di euro, un dato che peraltro non tiene conto dei debiti del Comune di Roma, quasi 10 miliardi di euro, perché il governo ha deciso di separare la situazione pregressa della gestione del Campidoglio come se fosse un ente di nuova costituzione. Il totale dei comuni italiani supererebbe del 120% le entrate correnti, in pratica ogni 1.100 euro per ogni cittadino italiano. La prima pagina del Sole 24 Ore, tutta dedicata, ampiamente dedicata alla crisi economica che sta ritornando a serpeggiare, a preoccupare tutti. Timori di crisi, vola lo yen, il in discesa il rendimento dei titoli di Stato americani e tedeschi, divisa giapponese ai massimi, da 15 anni sul dollaro e da 9 anni sull'euro, giù le borse, i sintomi di una nuova frenata mondiale, si impadroniscono dei mercati, gli investitori vendono azioni e puntano su tradizionali beni rifugio, valute, titoli di Stato, oro. Il calo dei listini era evidente già ieri, prima dell'arrivo del dato disastroso del settore immobiliare americano, con le vendite di case che sono appunto crollate ai minimi degli ultimi 15 anni. Avanza il timore che il rischio di una ricaduta in recessione per gli Stati Uniti e di conseguenza per il resto del mondo sia in realtà più elevato della possibilità di una ripresa stabile e duratura. La paura ha spinto così ieri lo yen ai massimi, da 15 anni sul dollaro e da 9 anni sull'euro, borse globali in tensione, oro in rialzo, mentre è sceso ai minimi il rendimento dei titoli tedeschi e americani. In Giappone l'opinione pubblica si allarma per il prevedibile impatto del super yen su un'economia ancora troppo dipendente dall'export, e la Cina intanto teme la fiammata dei prezzi. Io vi anticipo già che alle 12 questo sarà peraltro il nostro tema di Salvadanaio, mentre il tema di una ripresa globale molto lenta sarà invece il tema che affronterà a 9 in punto Oscar Giannino. Nucleare italiano, vi segnalo anche un'altra notizia del Sole 24 Ore. A settembre le nomine per l'agenzia e Sogin, il governo riprende in mano il dossier atomico. Per settembre è in programma la nomina del vertice dell'agenzia nucleare e il rinnovo del consiglio di amministrazione della Sogin. Entro un mese è attesa la presentazione da parte della società della mappa dei luoghi potenzialmente idonei a ospitare il deposito atomico. I comuni compresi nella mappa potranno candidarsi tramite una gara. Il Sole mette in prima pagina anche una foto con la strage di Mogadiscio di ieri. I miliziani di Al-Shabaab da due giorni stanno seminando terrore a Mogadiscio in un attentato all'hotel Muna. Ieri hanno provocato 33 vittime. Intanto è scontro all'ONU tra Gran Bretagna e Stati Uniti su una risoluzione contro la pirateria somala. C'è anche il caso Melfi, napolitano, superare lo scontro tra azienda e operai. Ci fermiamo, sentiamo cosa accade sulle strade italiane con la rassegna stampa. Ritorniamo tra pochissimo con la prima pagina del Messaggero. In primo piano. E ritorniamo con la nostra rassegna stampa. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani e, come vi anticipavo, riprendiamo dal Messaggero. Fiat interviene napolitano, grave episodio da superare, rimettersi alla decisione dei giudici. E poi la crisi globale, USA, il rischio recessione fa cadere le borse. Il commento di Oscar Giannino sull'invadenza dello Stato negli Stati Uniti. Due articoli vi segnalo. Sul tema politico c'è il commento di Pier Alberto Capotosti, la via d'uscita dal sistema bipolare all'italiana. Ve lo leggo magari un piccolo passaggio. Si era detto che la nuova legge elettorale, quella di Calderoli, approvata in vista delle elezioni del 2006, avrebbe assicurato governabilità e stabilità di governo, consentendo agli elettori di scegliere direttamente premier, maggioranza e programma di governo. Eppure, a soli due anni di distanza, la presa di distanza del gruppo politico del ministro Mastella dall'area di governo aveva di fatto portato alla fine anticipata della legislatura. Anche oggi, a soli due anni di distanza dalle elezioni del 2008, la presa di distanza dalla maggioranza di un autonomo gruppo politico facente capo al presidente Fini ha messo in moto un processo politico che pure tra mille variabili rischia di condurre rapidamente alle elezioni politiche anticipate. Che fine ha fatto dunque la promessa stabilità di governo? Vi segnalo altre due notizie, sempre dalla prima pagina del Messaggero. Roma, la scuola fantasma, aspetta l'apertura da 20 anni. Era una scuola dismessa, un complesso monumentale al centro di Roma nel vecchio Rione Monti. Oggi è una scuola fantasma, un cantiere infinito. Questo è un caso che vi segnalo perché ce ne saranno tantissimi altri in Italia. Un cantiere infinito che fa pensare, fatte le debite proporzioni, ad una piccola Salerno Reggio Calabria. La scuola si chiama Angelo Mai, racchiude una vicenda esemplare, la volevano tutti, la voleva lo Stato che 20 anni fa rilevò i locali da una confraternita religiosa, la voleva il Campidoglio, la volevano i genitori del Viscontino, una scuola media vicina per far studiare i loro figli in un edificio più sicuro. I senza tetto la occuparono, cantanti e attori firmarono petizioni per consacrarla alla musica. Oggi è abbandonata o quasi, i fondi stanziati non bastano e la fine dei lavori slitta ogni anno. Mangia male un bimbo su tre, nuove regole da Roma per le mense. Il Manifesto in primo piano, la fotografia di Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, con un berretto in testa. Il Manifesto titola: Presidente, operaio fuori dal teatrino dei palazzi romani. Napolitano risponde alla lettera dei tre operai di Melfi che l'azienda non vuole reintegrare al lavoro. Vi comprendo, e invita la Fiat a rispettare le leggi, la legge, e ad ascoltarli. Il Giornale prosegue la sua battaglia contro la famiglia Tulliani e titola oggi in primo piano: milionari con le imprese in rosso, società aperte e chiuse, oltre altre in perdita. Il giro d'affari, 685 euro di cancelleria, e spunta il geometra, case comprate da loro ma che le ha pagate Gaucci. Vittorio Feltri, il direttore, oggi non commenta l'evoluzione della sua inchiesta sui tesori della famiglia Tulliani, ma piuttosto commenta l'editoriale di Famiglia Cristiana, e l'editoriale si intitola così: le ultime volgarità dagli scantinati di Famiglia Cristiana. La foto sul Giornale ad indicare appunto un approfondimento interno è quella di Carlo De Benedetti, perché ieri dalla Consob a De Benedetti e un po' di familiari e collaboratori sono arrivate multe per 3,5 milioni di euro per insider trading sulle azioni dell'azienda, di una delle aziende di famiglia, appunto la CDB Webtech, un fondo salva imprese per insider trading. Anche questo appunto è una vicenda che occupa soprattutto le pagine finanziarie dei quotidiani. Libero, Casini Amari, Perfini, lo scontro, Silvio vuole l'UDC nella maggioranza perché è il minore dei mali, la Lega vuole le elezioni per fare il pieno, oggi il vertice decisivo, chiunque vinca perderà. Gianfranco, c'è l'editoriale di Maurizio Del Pietro su Pier Ferdinando Casini e poi il pezzo di Franco Becchis, perché ieri sera il TG della 7, ma ieri anche Dago Spia, avrebbero avanzato così l'ipotesi che in realtà la notizia dei possedimenti immobiliari a Monte Carlo della famiglia Tulliani fosse in possesso da parte di Libero già da tempo, ma che per ragioni di opportunità politica non sarebbe stata divulgata. Franco Becchis risponde su Libero appunto che questo non è vero e quindi spiega le motivazioni e spiega in realtà che la notizia è stata trovata, insomma scoperta in un determinato momento e in quel momento appunto pubblicata. Il Fatto Quotidiano, il titolo è tutto un programma, Sputtanopoli, il titolo di primo piano, nell'ex partito dell'amore Berlusconi e Fini si rinfacciano scandali ed illegalità, Bossi e Casini fra minacce e ricatti, la destra implode sulla questione morale. Vi segnalo però sulla prima pagina del Fatto Quotidiano in realtà il fatto che questo quotidiano oggi ospita una lettera di Adriana Faranda, che la Faranda stessa appunto, l'ex brigatista, ha fatto pervenire al quotidiano e la commenta Luca Telese. Adriana Faranda ci ha scritto una lettera sorprendente, anche drammatica, sul suo rapporto con Francesco Cossiga e la lotta armata e quindi insomma sarebbe anche interessante scoprire oggi come viene riletto il rapporto con il presidente emerito della Repubblica che è deceduto qualche giorno fa. La prima pagina dell'Avvenire, che è completamente diversa rispetto a tutte quelle che abbiamo visto fino a questo momento, l'Avvenire mette in primo piano la strage di Mogadiscio. Irruzione di kamikaze nell'hotel dei deputati, 70 morti, sanguinoso attacco dei fondamentalisti islamici al fragile potere politico, domina il caos nella capitale somala, sempre più ingovernabile, 3 uomini armati hanno colpito nel cuore della capitale, 6 parlamentari tra le vittime. Gli Shabab rivendicano: nei giorni scorsi avevamo annunciato un attacco contro gli invasori cristiani e il governo apostata. Nella città continua l'offensiva dei miliziani, altri 40 civili colpiti nel corso dei combattimenti che paralizzano il centro, ritardano i rinforzi appunto delle forze di protezione dell'area. C'è un'intervista anche al presidente del Parlamento che chiede aiuto, il mondo ci aiuti. Ci sono altre 2 inchieste molto originali dell'Avvenire all'interno appunto delle sue pagine, quindi ve le segnalo. Il quotidiano è andato in Norvegia dove greggio e finanza etica hanno evitato praticamente l'effetto crisi con la strategia stoccafisso, anzi titola il giornale, è stata evitata la crisi, è stato evitato l'effetto crisi. E poi c'è anche un'analisi di come sta andando la vendemmia, come potrebbe andare la vendemmia nel nostro paese. Il 2010 dice è andata ottima, ma c'è chi sostiene che potrebbe essere troppo abbondante. Una bella foto in prima pagina sull'Avvenire. Io ho visto, notato che questa notizia viene riportata solo dall'Avvenire. 100 anni fa nasceva Madre Teresa di Calcutta, la donna che stupì il mondo, la matita di Dio, per cui credo che forse sia caso che oggi invece anche altri ricordino questo compleanno, chiamiamolo così, che lei naturalmente non può celebrare, non può festeggiare. Il Foglio, vi segnalo dal Foglio un'altra analisi di Mattia Ferraresi, che ieri già si era dedicato ampiamente alle vicende di Wikileaks, oggi invece torna con la fine di Mogadiscio. Nella Somalia svuotata dalla guerra, la missione Amazon non ha i mezzi per salvare il governo assediato, l'amministrazione Obama usa il contenimento contro l'Al-Qaeda africana, ma anche laggiù non funzionerà. C'è poi da segnalarvi, cambiamo completamente argomento, andiamo invece alla prima pagina del Giorno, che si occupa ancora di un tema di cui si sono occupati i quotidiani nei giorni scorsi, e cioè di come sono andate anche le vacanze nel nostro paese, fra problemi appunto di natura economica per molte famiglie. In realtà la notizia che il Giorno dà è buona, perché c'è lo storico sorpasso in Riviera, i turisti dell'est sarebbero più numerosi dei tedeschi, un mare di russi dalla costa adriatica al Tirreno, dilagano i clienti venuti dalla Russia e a rappresentare questa la popolazione russa, appunto il giorno in realtà mette una russa che da anni vive felicemente in Italia, Natasha Stefanienko, che arrivò da turista nel 92, ma oggi mi sento più italiana che russa, tanto che poi lo ricorda anche il giorno, ha sposato un imprenditore marchigiano e da anni vive nelle Marche. Però c'è un tema economico importante che il giorno affronta, cioè la stangata con la quale si presenta l'autunno per le famiglie italiane, che verranno accolte da una serie di aumenti dei prezzi di beni e servizi che porteranno appunto la stangata 2010, come amano definirla le due associazioni dei consumatori che hanno fatto questa analisi, a quasi 1.200 euro, 1.118 per l'esattezza. A pesare sono i rincari di quasi tutte le voci del budget familiare, dall'RC auto al riscaldamento, dalle tariffe del gas e i biglietti aerei. Adusbef e Federconsumatori hanno aggiornato le cifre dell'aggravio alla luce degli andamenti più recenti dei prezzi e secondo i loro calcoli dal 2007 al 2010 il potere d'acquisto delle famiglie si è ridotto del 9,6%. Rapidamente, la voce in cui si registra l'aumento più consistente è quella relativa all'assicurazione dell'automobile, 159 euro a famiglia in più rispetto allo scorso anno. Irene, io ho terminato. Però... E tu pensa che mi ero preparata il numero proprio esatto di articoli da leggere oggi. Un tormento quest'ultimo che hai è la stangata segnalato. Di Federconsumatori Adusbef. Sì, ogni semestre ci danno sempre queste buone notizie. Dobbiamo chiuderli ora questi giornali, perché tra poco apriremo libri. A te è mai capitato di prendere in mano e leggere un libro che detestavi quando eri sui banchi di scuola? Non mi ricordo di aver particolarmente detestato alcun libro, però mi è capitato di riprenderne qualcuno. Ci pensavo prima quando hai lanciato un'oretta fa spose. No, le ultime lettere di Jacopo Ortis. Però sei particolare in tutto, Debra. Proprio questo vi chiederemo nel sondaggio di Bianco o Nero. Parleremo di lettura, cioè il Festival della Letteratura di Mantova dietro l'angolo quest'anno. Radio 24 lo seguirà sabato 11 settembre, anzi alle 21 ci sarà uno speciale sul festival curato da Alessandra Tedesco. C'è il Campiello, rush finale del concorso letterario, e oggi nostro ospite tra l'altro uno dei candidati, Gianrico Carofiglio, con Le perfezioni provvisorie. Parleremo proprio dell'abbinamento obbligo di lettura piacere. Può continuare? Forse la scuola a volte, tentando lo stimolo, in realtà allontana da alcuni libri che i ragazzi gradirebbero se avvicinati di propria spontanea volontà. Sembra che, secondo i dati Istat, il segmento di italiani che più legge, e tra loro addirittura ci sono lettori forti, almeno un libro al mese, siano i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Sorpresa, Debora? Un pochino sì, però devo dirti, ho avuto un'avventura quest'estate con la figlia di mia cugina, molto piccola. Mia cugina mi ha detto: le è esplosa il desiderio di lettura, e io le ho regalato di tutto, Le piccole donne, tutte le cose che vanno lette a quell'età, le mie 10, ne ha 10, quindi ne ho approfittato, ho fatto la brava zia. E ben ritrovati ancora una volta al microfono Irene Zerbini. Oggi andiamo in Spagna, o meglio, non è vero, rimaniamo in Italia, ma la guarderemo con occhi spagnoli, grazie al corrispondente che incontreremo questa mattina. Hola, Rossen Domenech. Hola, buon dia. Buon dia, benissimo. Dunque, lui è il corrispondente di El Periodico. Non facciamoci ingannare dai cosiddetti finti amici dal punto di vista linguistico. Il Periodico è un quotidiano ed è la firma italiana che racconta questo strano paese ai suoi lettori spagnoli, fornisce una lettura distaccata sui malfunzionamenti del mondo dell'informazione, del mondo politico e della vita quotidiana. Vogliamo chiederti, Rossand, prima di tutto, da quanto tempo vivi in Italia? Rispondo a questo dicendo che pago affitto da 30 anni, che non vuol dire che stia sempre qua. Ho fatto 10 anni nei Balcani e venivo solo ogni tanto, quando c'erano tutte le guerre. Poi mi sono occupato anche di argomenti di Centro e Sud America e andavo là, tornavo. Però hai continuato a gravitare, diciamo così. Siamo sull'Italia, ho una base in Italia. Hai una base da 30 anni e non è poco. E le ultime cose di cui hai scritto, gli ultimi articoli che hai redatto per El Periodico, su quali tematiche erano incentrati? Allora, siamo d'estate, quindi c'è un mix di argomenti. Gli uni vengono dati dall'attualità: se muore l'ex presidente Cossiga, bisogna scrivere di Cossiga. se c'è un'operazione antimafia importante si scrive di questo. Ma essendo estate c'è anche tempo di mettere altri tipi di argomenti, e anche per un'altra ragione possono entrare questi altri argomenti, ed è che il giornale dedica ogni giorno l'ultima pagina degli esteri a due argomenti dall'estero. Però sono quegli argomenti che non sarebbero notizia, le agenzie non ne parlano, però che ci chiedono di parlarne, perché per poter fotografare un momento, qualcosa, in questo caso dell'Italia, che non sarebbe notizia, ma che la facciamo diventare notizia, una piccola cosa, vengono eliminate le cabine telefoniche. E allora si fa un articolo sulle cabine telefoniche. Qualche elemento che fotografa bene lo stato di salute, le abitudini, il costume, esatto, di un altro paese. E lì trova posto qualche tua corrispondenza sull'Italia che non sia strettamente politica o di attualità. Esatto, mesi fa scrissi un altro sul fatto che gli italiani in genere avevano smesso di sorridere come sorridevano prima e che quindi dovevamo preoccuparci. Cioè fotografare un attimo, un qualcosa che dia una idea di che sta succedendo, o non è necessario che sia dell'Italia in genere sono cronache firmate in una città. No, è chiaro lo spirito di queste cronache, ma tornando al sorriso, tu hai raccontato si sta spegnendo qui in Italia, e come l'hai spiegato ai tuoi connazionali spagnoli? Ho spiegato che gli italiani sembravano arrabbiati, vivono in questi ultimi anni come arrabbiati, come contrariati, e che non è positivo questo, che fa male, credo faccia male anche quando uno deve pensare alla propria vita o alla vita collettiva. Non so, per esempio, i giovani italiani si lamentano molto, e anche chi analizza queste cose sottolinea il fatto che la precarietà lavorativa porta un disagio molto grande a diverse generazioni di giovani italiani. Ora, questa precarietà qui in Italia viene risolta in una certa maniera, da altre parti viene risolta in un'altra. Se posso fare un piccolo esempio. Per esempio, quali sono i punti di contatto e le differenze con la Spagna? Un giovane spagnolo non è tanto preoccupato della precarietà, la Spagna è il paese molto più precario che non l'Italia, con una differenza: il giovane precario fa un lavoro una settimana, non le piace, lo cambia, lo fa un mese, non gli piace ancora e ne cerca un altro. E un'altra porta si aprirà comunque. Ma perché dietro c'è una sicurezza che il giovane italiano in generale precario non ha, e cioè: qualsiasi sia il periodo di tempo che lavori precariamente, in quei soldi che riceve, il datore di lavoro dovrà pagare a parte la parte corrispettiva di pensione, di vacanze, di disoccupazione e di cassa malattia. Cioè, questo dà una serenità a quei giovani, per cui cambiare lavoro non significa perdere la possibilità di aggiungere altri contributi alla pensione, per esempio. Poi tutti noi abbiamo la disoccupazione in Spagna, cioè ogni mese ci viene tolto qualcosa per il giorno in cui casomai succedesse che restassimo disoccupati, e allora si ha l'80% dello stipendio. Tutti, questo è universale. Visto che sei partito dal sorriso e sei arrivato all'economia, ricordiamo quando Zapatero e Prodi si confrontarono su un eventuale sorpasso della Spagna, e questa rivalità che si è sempre alimentata. Come vivono gli italiani, i tuoi connazionali spagnoli? Allora, la prima volta che venni in Italia il direttore mi disse: vai, raccontaci quello che succede là, perché dopo che è successo in Italia succede in Spagna. E quindi era come un anticipare ciò che sarebbe successo poi in Spagna. Ora, tanti anni dopo, succede o al rovescio o metà e metà. La Spagna credo sia molto più avanti in certe cose, per esempio l'organizzazione capillare dello Stato, parlo dal centro fino al comune, molto più avanti che l'Italia, mentre l'Italia è molto più avanti in altre cose, la capacità di recuperarsi economicamente, la capacità di fare impresa piccola media, la capacità di trovare quello che rende la vita, dà alla vita di ogni giorno più qualità, mentre gli spagnoli in genere come popolo siamo molto più consumisti. Senti, la signora Ibrahimovic ha fatto un'affermazione curiosa riportata dai quotidiani italiani ieri, parlando del possibile ritorno a Milano del suo amato, della sua dolce metà. Ha detto: io sono quella che spinge perché in realtà la qualità della vita di Milano è superiore a quella di Barcellona. Dall'Italia, che sempre si lamenta, è difficile capire cosa intendesse Miss Ibrahimovic, quindi tu forse ci puoi aiutare a capire? Io credo che la qualità di vita in genere in Italia è molto superiore a quella spagnola. In che ambito? Possiamo, qualsiasi ambito prendiamo. A casa ogni italiano ha dell'olio extravergine che è andato a prendere da qualcuno che conosce oppure da qualcuno che gli ha fatto conoscere un altro. Per trovare un olio extravergine in Spagna bisogna fare strada, nei ristoranti non te lo mettono sul tavolo, mettono olio d'oliva. È un piccolo esempio per dire che qui c'è una ricerca della qualità di vita, e non solo una ricerca, ma si vive questa qualità di vita, che in Spagna non c'è. In Spagna ci sono grandi, tanti, molti di più di qui, di supermercati, di ipermercati, di grandi superfici, e la gente ha perso. Nel mio paesino di 2000 abitanti ogni famiglia aveva un orto, oggi ne è rimasto uno. Beh, non è che Milano o Roma pullulino poi di orti o di... No, è vero, però non so, il chilometro zero si è inventato qua, il concetto è anche la realtà, i farmers market se ne sono inventati qua. C'è un'attenzione che altrove nelle società capitalistiche, nelle nazioni del G8, è difficile trovare ed è anche difficile coltivare, per rimanere in ambito agricolo. Ritornando a un altro articolo che tu hai scritto, a un certo punto hai fatto un'analisi impietosa delle velleità dei giornalisti italiani, che partendo dal ruolo di informare si allontanano da questo compito, è scritto, e finiscono per intervenire direttamente nella vita politica. Credo che questo è un rischio che succede dappertutto nei paesi occidentali. In Italia, che nel bene e nel male, ma anche nel bene, a volte nel male, è un paese che vive molto più al confine, molto più spinto, allora si trovano, forse in maniera un po' più esagerata, quegli stessi difetti che abbiamo in Spagna così. Piccola osservazione, quante pagine ogni quotidiano dedica alla politica interna? Tante, tante, tante, tante, tante, troppe, credo. Cioè ogni frase pronunciata da un politico merita un pezzo nelle pagine. Non credo che serva a niente, anche perché dopo un'ora quello è già cambiato, l'indomani mattina quello è già cambiato. Con la scusa di voler capire, ti cito tradotto, si rischia di creare complicità sottili mentre, insistendo troppo sul diritto a pubblicare, si allontana il giornalismo dal suo ruolo di informare, come avevamo detto, e arriveremo in questo vicolo cieco al suicidio dell'informazione. Io credo che i giornalisti siamo i principali complici del fatto che il giornalismo sia molto decaduto. Prima un po' la funzione del giornalista era una specie di intermediario tra il potere, la classe dirigente, fosse economica o politica, e i lettori. Oggi invece, vedendo i giornali e non solo italiani, ho l'impressione che i giornalisti sono passati dalla parte di sopra, cioè sono più portavoci dei poteri, dei diversi poteri, che non intermediari tra i poteri e i lettori. Facendo così, che succede? che un articolo, per esempio nelle pagine politiche, si fa con un comunicato stampa, si fa con una dichiarazione, non si racconta ciò che succede, ma si racconta di più ciò che si dice. Quello che si è detto, più anche delle conseguenze poi pratiche delle decisioni della classe politica. E tu parli con noi, ti assumi tutte le responsabilità con questa scelta. Noi giornalisti siamo i responsabili del decadimento del giornalismo. Molto interessante, molto onesto. Grazie mille, Ross and Domenech. Ci mancherebbe a voi. Buona giornata, naturalmente, hasta luego. Adios. E sarebbe stato bello soffermarsi anche più a lungo, una persona decisamente interessante, uno dei corrispondenti che incontriamo ogni mattina alle 8:15 nel corso di questa 24 mattino estate. Ancora ben ritrovati, Irene Zerbini al microfono. Oggi vi abbiamo chiesto: avete mai riletto un libro che odiavate a scuola? Ed è successo, sì, è un'esperienza che ha avuto il 42% degli ascoltatori di Radio 24, o almeno di quelli che stanno partecipando al sondaggio, perché potete continuare a votare su www.radio24.it. L'obbligo di lettura uccide il piacere? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Alcuni numeri per partecipare, dire la vostra, soprattutto il telefono 800 24 00 24 per i messaggi SMS 349 238 6666. E con noi anche un autore che forse avrete letto, non credo vi abbiano obbligato a scuola a farlo, quindi stando a quanto si dice, percentualmente ha avuto maggiori possibilità che voi lo abbiate avvicinato. Gianrico Carofiglio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Autore tra l'altro delle Perfezioni Provvisorie, finalista al premio Campiello 2010, tra poco anche l'ardua sentenza proprio dietro l'angolo. Caro figlio, lei avrebbe piacere che gli insegnanti la mettessero nella lista dei libri obbligatori? Mi mette un po' in imbarazzo, parecchi insegnanti, no, nel senso che parecchi insegnanti l'hanno già fatto. Fatto al liceo, però immagino anche nelle scuole medie inferiori, a dire la verità. Questo è stato fonte di una grande, non dico soddisfazione, ma insomma di una situazione divertente, perché io ho incontrato, ora mi capita molto di meno, ma spesso andavo nelle scuole negli anni passati, ho incontrato delle scuole medie inferiori, in particolare delle terze medie, insomma ragazzini un po' più grandi, e l'acutezza delle cose che dicevano questi, mi veniva da dire bambini, ma in realtà non sono bambini, sono ragazzi, dopo aver letto i libri, dopo averli interpretati e discusso con i professori, lasciava francamente stupefatti. C'è un'acutezza che lei non trova poi quando il parterre è costituito da adulti. No, non è esattamente questo, è un'acutezza che uno non si sarebbe assolutamente aspettato da ragazzini di 13 anni. Quale libro è stato inserito nelle liste della scuola media? Testimone inconsapevole è stato molto letto anche nelle scuole medie inferiori, nelle scuole medie superiori un po' tutti. E brevemente, diciamo, ci ricordi la tematica? Beh sì, Testimone inconsapevole è la storia di un avvocato che attraversa una crisi personale catastrofica anche a seguito della separazione, e nel corso di questa crisi viene a impattare la vicenda di un suo cliente, un ragazzo senegalese che è stato accusato di un orribile omicidio di un bambino, e attraverso questo processo, che diventa in qualche modo la lotta per la libertà e per il riscatto di questo ragazzo senegalese, lui in qualche modo ritrova il senso della sua esistenza. Ecco, questo proprio in estrema sintesi. Tematiche non facili che però hanno sollecitato diverse domande e riflessioni da parte di questi giovani lettori. Ora, perché stiamo aprendo questa discussione proprio con i ragazzi delle medie? Perché secondo i dati Istat, attenzione, in Italia si legge, ma quelli che leggono di più sono coloro che hanno tra gli 11 e i 14 anni. E dopo un po' questa abitudine alla lettura, questa frequentazione col libro, sono anche forti lettori e molti leggono anche un libro al mese, come ci ricorda ieri una bella inchiesta di Repubblica. E però questa frequentazione, questa abitudine un po' si perde. Marzia Corraini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Marzia Corraini è una delle 8 organizzatrici del Festival della Letteratura di Mantova, fa parte anche del comitato direttivo. Questo festival attira fino a 70.000 persone l'anno, è in una città splendida tra l'altro, e Radio 24 quest'anno lo seguirà, sabato 11 settembre ci sarà uno speciale su questo festival. Io ricordo un'iniziativa decisamente originale, quella di stampare libri in 20.000 copie e poi distribuirli in giro a tutti, così che si crei una discussione, una circolazione. Perché e quali titoli avete stampato finora? Perché lo fate, Marzia? Sostanzialmente è una delle emanazioni del festival. Il festival dura praticamente 4 giorni con un programma molto ristretto e deciso da noi. Invece quest'altra iniziativa che abbiamo chiamato Qui comincia la lettura avviene in un periodo molto più lungo dell'anno, da febbraio in poi. Viene scelto un libro diciamo anche tra i tradizionali, perché noi abbiamo un problema di diritti e quindi scegliamo anche per questo motivo, chiaro, ma anche perché ci piacciono libri qualcuno che non tipo. Venga a rivendicarli questi diritti e nemmeno gli eredi. Il motivo glielo spiego, perché proprio il libro che noi scegliamo viene messo a disposizione di tutti. Come lei diceva, all'inizio erano 20.000 coppie, l'ultimo anno sono state 30.000 coppie. Che sono sì, ma i titoli finora, cosa avete stampato? I titoli vanno da Yolanda alla fine del Corsaro Nero, Il bacio di una morta, Alpinisti ciabattoni, Amore ginnastica e l'anno scorso Zanna bianca. Quindi voglio dire, quest'anno l'avete scelto il titolo? Quest'anno? No, non ancora, di solito allora accettiamo suggerimenti, perché qui gli ascoltatori tramite SMS stanno parlando di Via col vento, stupendo, e poi se vorranno continuare nel corso della trasmissione 349-238-6666. Ma lo stampate 20.000 copie, sì. E poi cosa succede? Lo distribuite a tutti e la mattina cambiate il corso delle conversazioni nei bar? Cioè, qual è? Qualche volta sì. Devo dire che ci sono stati titoli che hanno sicuramente impattato in maniera più forte piuttosto che altri, però questa distribuzione a pioggia che avviene nei luoghi, diciamo, proprio della comunità, dalle biblioteche che sono il luogo del libro, ma anche nei bar o dal barbiere o in altri negozi che si mettono a disposizione. Sostanzialmente sì, abbiamo delle persone che si mettono a disposizione che consentono di di distribuirlo, abbiamo capito il meccanismo e portarlo in giro. Ma l'importante è che poi ognuno di questo libro fa quello che vuole. Nascono gruppi di lettura, dentro le scuole vengono fatte molte cose, ma anche in luoghi dove non ci si aspetta questo, quindi non so, circoli privati, amici, eccetera eccetera. Marta, lei è stupita dal fatto che siano gli undicenni fino a 14 anni i più avidi lettori italiani? No, sono diversi anni che questo succede e c'è comunque una ricerca e una curiosità nei ragazzi di quell'età, e quindi direi che è interessante questo dato che continua a ripetersi. Meno interessante è che dopo smettano, e che quindi bisogna comunque ragionare sul perché. Aspetti, perché qualcuno ci dice via SMS che anche la mancanza di tempo, a quell'età si ha più tempo per questo tipo di piacere. È vero, dice qualcuno, che l'abbinamento obbligo, quindi l'insegnante che ti impone il libro, uccide il piacere, ma è l'unico modo per favorire la fame di lettura. Per i vostri commenti 800 24 00 24, questo è il numero di telefono, e con noi in studio, dulcis in fundo, un insegnante. Buongiorno e benvenuto a Roberto Carnero. Buongiorno. E Roberto ha insegnato a lungo all'università, ma ha scelto quest'anno di tornare al liceo ed è autore di un'antologia molto interessante, Perché non ha i classici. È un'antologia della nuova narrativa italiana dagli anni 80 a oggi. E la tua è una scelta polemica? Ma sul percorso classico? È un tentativo di dare un contributo all'aggiornamento della scuola e della didattica della letteratura italiana, perché mi sono reso conto proprio in questi anni in cui insegnavo all'università che arrivavano gli studenti con la maturità fatta a scuola e i programmi arrivavano normalmente a D'Annunzio, a Pirandello, cioè agli anni 20 e agli anni 30, esattamente all'epoca in cui si fermavano i programmi della riforma Gentile, che è del 23. Quindi lei e dice lo spirito della riforma Gentile era comunque quella di arrivare, alla contemporaneità, solo che ci si è fermati lì, per cui oggi c'è un'arretratezza, diciamo, di 80 anni, 90 anni di letteratura che non si arriva a fare a scuola, per cui l'idea era quella di guardare proprio la produzione recente per far capire anche agli studenti che la letteratura è qualcosa di vivo, che si continua a fare, che si continua a produrre, e ci sono degli ottimi scrittori che vale la pena leggere. Ma quando si parla di letteratura per ragazzi o si seleziona un testo per i ragazzi, secondo lei è giusto stare attenti, eliminare alcuni passaggi, togliere delle pagine, o come ci ha dimostrato l'esperienza riportata anche da Gianrico Carofiglio, in realtà i ragazzi non hanno questo bisogno? Direi che della censura non c'è mai bisogno, alcuni tagli in alcune edizioni, diciamo, edulcorate per l'infanzia sono anche francamente ridicoli, no? Sono cose che si facevano un tempo, ecco, oggi forse c'è una maggior fiducia anche nella capacità critica, e gli studenti che guidati all'insegnante possono avvicinarsi ai classici nella loro integrità, questo senz'altro. Ai classici, ma sto parlando di letteratura contemporanea. Beh, alla letteratura contemporanea anche, sì, perché spesso poi la cosa che vedo che accattiva gli studenti in questi libri è anche la lingua, anche proprio questa capacità che hanno questi libri di parlare con una lingua vicina alla loro. Penso a un libro come Jack Frusciante, uscito dal gruppo di Brizzi, o i libri di Culicchia, ma anche Tondelli, che è un autore che per alcuni aspetti presenta dei tratti che potrebbero essere visti come problematici in un'ottica un po' moralistica dal punto di vista degli adulti, no? Ma invece i ragazzi hanno la capacità di leggerlo senza inibizioni. Comunque lei Verga, Pirandello, Svevo, I Promessi Sposi li insegna? Beh, assolutamente sì, ecco, cioè non è una sostituzione, non è la proposta di una sostituzione, si tratta di affiancare le due cose. I classici hanno una capacità, una potenzialità formativa che non va sicuramente buttata via. Continuano intanto i suggerimenti per il libro da stampare in 30.000 copie, e ci dicono Il Piccolo Principe. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E da che parte ci si schiera? C'è chi dice vanno eliminati del tutto i classici, ma soprattutto va eliminato l'imposizione di leggerli, e allora verranno goduti di più. E c'è chi invece dice vanno affiancati, attenzione, rinnovare il parco libri e le biblioteche scolastiche non significa gettare alle ortiche poi coloro e i titoli che sono stati considerati classici da generazioni intere. Ma perché? Cosa raccontano quei classici a chi sempre di più legge in iPad? Gianrico Carofiglio, pronto? Eccoci qua, sì. Beh, vabbè, insomma, no, non tocca a me certo dire qual è il senso e il rilievo della lettura dei classici. Il classico, ha detto qualcuno, è il libro che è scritto magari tanti anni fa, ha sempre qualche cosa di completamente nuovo da dire a chi si avvicina adesso. Il problema appunto è l'avvicinarsi adesso e non essere spinti o addirittura brutalizzati a leggerlo. La questione del cosiddetto obbligo di leggere i libri è una questione delicatissima, perché in realtà la lettura è uno degli atti spontanei per eccellenza. Imporre di leggere un libro è un po' come imporre a qualcuno di essere spontaneo. Sì, spontaneo è, insomma, una delle classiche ingiunzioni paradossali. D'altro canto, però, sì, è necessario. Quell'imperativo non si può declinare all'imperativo. Però in certi casi spesso una spinta gentile per avvicinare alla lettura, sia di classici, dei moderni o di qualsiasi cosa, è necessaria per dare l'idea dell'opportunità. Questa è ovviamente una delle Sono d'accordo difficoltà. Su questo, da insegnante, lo posso dire. Cioè, a volte bisogna anche un po' così, non dico forzare i studenti, ma spingerli, perché sennò, perché da soli magari non ci arrivano, non conoscono, non sanno che ci sono certe cose che vale la pena leggere, quindi è giusto anche fargliele conoscere, fargli sapere che ci sono. Però senza interrogarli, cioè dove sta la gentilezza dell'imposizione, scusi caro figlio? Ah, certamente questo è uno dei complicati temi della persuasione in generale, della persuasione etica, cioè di rappresentare a qualcuno che esiste una possibilità, farlo avvicinare a questa possibilità e lasciare poi che sia sua la decisione di praticarla e di perseguirla. Di solito funziona se chi gestisce la proposta, la spinta gentile, come dicevo prima, peraltro citando il titolo di un bel libro che parla di queste cose, è capace di farlo trovando il giusto equilibrio. Comunque, è la difficoltà del lavoro di insegnante. Comunque noi l'abbiamo scomodata, perché uno dei suoi personaggi che torna nei suoi romanzi, caro figlio, è sempre questo avvocato Guerreri che ha l'ossessione della lettura, e anzi proprio questa perfezione provvisorie che concorre al premio Campiello, almeno è arrivato in finale, si apre proprio con lui che trova il taxista con dei libri sorprendenti sul sedile e in qualche modo chiede al taxista come mai. Quasi è un po' un approccio, possiamo dirlo, Guerriere, un po' snob quello dell'avvocato Guerriere che si stupisce che anche un taxista legga. O ci voleva dire qualcosa lei? Beh, insomma, io non credo che sia un approccio snob, ma trovo che insomma, il punto di vista del lettore sia sempre non solo rispettabile, ma preferibile rispetto a quello dell'autore, quindi se per lei è snob io lo accetto. Però al di là di questo, diciamo, spunto interpretativo, la storia del tassista io credo che sia molto bella, non perché l'ho scritta io, ma perché è vera. È uno dei pochi episodi completamente veri che sono raccontati in questo libro e se volete lo racconto. Snob non toglieva nulla alla bellezza, eh? Era questo approccio che spesso tanti di noi condividiamo, purtroppo, dall'aspettarsi che il grande lettore sia solo il laureato e poi ti sorprendi, sono i ragazzini di 11-14 anni e sulla stessa falsa riga anche il suo tassista. La racconti? Sì, il tassista è, diciamo, il protagonista di un episodio realmente accaduto. Io ero a Roma, arrivato all'aeroporto, salì su questo taxi e vidi sul sedile anteriore, quello vicino al guidatore, una pila di libri, quello che nel romanzo non ho potuto scrivere, che in testa a questa pila di libri c'era un mio romanzo, Il passato una terra straniera, e ovviamente questo mi incuriosì e mi lusingò enormemente. E quindi chiesi a questo signore che ci facesse con quei libri, una delle più stupide domande che si possono fare, perché lui ovviamente mi rispose che li leggeva nelle pause ci di lavoro. Ci fisso il tavolo che traballa. Esattamente. E insomma, quindi mi interessai alla sua storia, che era straordinaria, perché lui disse: guardi dottore, io fino a 28 anni non ho mai letto un libro, però deve sapere, io balbettavo. E quindi andai a fare un corso di logoterapia per smettere di balbettare, e lì ci facevano leggere ad alta voce e lui cominciò a leggere come un esercizio fisico e disse: facendo questo esercizio, leggendo ad alta voce, io ho scoperto i libri e da allora non riesco più a separarmene. Io trovo veramente un episodio bellissima bellissimo. Storia. Io gli dissi: guardi, io lo scriverò. Lui, quindi lei si è presentato, caro figlio? Poi io gli ho detto che quel libro era mio e lui mi ha guardato con aria strana nello specchietto retrovisore e forse ha pensato di aver caricato il matto, però io ho formalmente chiesto l'autorizzazione a raccontare la sua storia e lui ha fatto un cenno d'assenso. Però molto bella questa storia. E questo fatto di leggere ad alta voce è significativo, perché effettivamente uno degli aspetti del piacere della lettura è proprio la voce, la fisicità della lettura, e nella scuola questo è molto importante, cioè molto importante che gli insegnanti leggano il testo ad alta voce, facciano sentire proprio il piacere di leggere, dei suoni che escono dal testo, insomma. Intanto continuano i suggerimenti per Marzia Corraini. Il piccolo principe lei dovrebbe ristampare, secondo un ascoltatore. Non c'è bisogno di ristamparlo, è in tantissime copie, uno dei libri più letti quello. aspetti perché non è finito, sto scorrendo velocemente gli sms, quindi l'abbiamo scartato. Il piccolo principe, se questo è un uomo, e Huckleberry Finn. Huckleberry Finn è un altro dei suggerimenti. Lei ci pensi, perché poi alla fine ci dirà se sceglierà tra questo paniere che le propone Radio 24. No, sono comunque sempre idee che terremo presenti, poi si fanno diverse valutazioni e si deciderà tra pochissimo. E c'è anche qualcuno che confessa di aver riletto I Promessi Sposi dopo 30 anni e li ha trovati particolarmente moderni, specie ripensando un improbabile innominato che si pente, questo è Roberto. Stefano da Bologna, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Guardi, io volevo solo portarle una testimonianza. Io ho fatto il collegio 4 anni in cui ci obbligavano a leggere, non a leggere un libro particolare, a leggere. E il primo anno ne ho letti 2, in terza media ne ho letti 14. Il primo anno di superiori mi hanno costretto l'insegnante italiano a leggere Madame Bovary. Bene, è il libro che io odio di più della mia vita. Quindi voglio dire, secondo me va bene obbligare a leggere, ma non a leggere un libro in particolare. È interessante anche questa distinzione. Grazie a Stefano. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Lei, maestro, questo che ha preso dice nota. L'ascoltatore è importante, cioè la capacità dell'insegnante sta anche nel capire qual è il libro che va bene per quel ragazzo, per quella ragazza, cioè conoscere i suoi studenti, studenti e anche personalizzare letture, perché un libro che piace a uno non piacerà a un altro, si tratta anche di generi letterari diversi. E poi lei ha parlato anche della fisicità del libro, della fisicità della voce. Mi chiedevo, non abbiamo poi risposto anche con Caro Figlio, ci torneremo, c'è anche una fisicità del libro, perché qualcuno si dice preoccupato dell'avvento dell'iPad che toglierà questo piacere della pagina. Penso che I ragazzi sono molto abituati a leggere sui supporti multimediali, internet, telefonini e quant'altro, però credo che il libro di carta ancora abbia una sua importanza, cioè non dobbiamo mandarlo al macero troppo velocemente, nel senso che sul libro uno sottolinea, è suo, è qualcosa che rimane, il virtuale si perde più facilmente. E poi dà anche un'idea, penso ai manuali di letteratura, proprio un'idea della conseguenzialità del tempo, nel senso che spesso gli studenti misurano il tempo cronologico sul numero di pagine, i manuali di storia, di letteratura italiana, o di capitoli, ma questa è una cosa che può far sorridere, ma è anche un modo visivo di apprezzare lo scorrere del tempo, di quantificarlo. Senza demonizzare l'iPad. Assolutamente no, sono cose che devono coesistere. Gianrico Caro Figlio? Io penso sempre, quando capitano questi discorsi, a quello che il grande Turner, poeta, pittore inglese del XIX secolo, disse in vecchiaia, quando comparvero le prime fotografie, i primi daguerrotipi. Lui disse di essere contento di essere ormai vecchio, perché non avrebbe assistito alla morte della pittura. La pittura è viva e vegeta, e io credo che il libro di carta sarà vivo e vegeto in salute anche fra molti anni, proprio perché sono cose diverse. Se io devo andare in viaggio in Brasile, faccio per dire, e starci 3 mesi e voglio portarmi 100 libri, è ovvio che troverò molto comodo avere l'iPad o qualsiasi tablet, il Kindle di Amazon o qualsiasi altra cosa di questo genere, perché lo metto nella borsa da viaggio e posso leggere quello che mi pare senza portarmi un quintale di roba. Uno strumento in più, dunque. Certamente sì. Caro Figlio, ma le è capitato di riprendere in mano un libro che non amava perché le era stato imposto durante il percorso scolastico? E di scoprirlo bellissimo, magari. Era piuttosto difficile impormi qualche cosa, non perché avessi un libro particolarmente ribelle o, diciamo, non ha questa esperienza, allora. Perché diventavo terribilmente sfuggente, nel senso mi distraevo e scogitavo spesso in maniera inconscio, inconsapevole, ogni tipo di mezzi per sottrarmi alle imposizioni. Io francamente non mi ricordo di aver letto un libro per costrizione nella mia vita, anche se certamente ci hanno provato, e quindi non posso raccontare nulla di questa esperienza. Mi spiace, da questo punto di vista non posso esservi utile. Non l'ha condivisa. A questo punto, tra gli ascoltatori che ci hanno raccontato, sì, a me è capitato di riscoprire un libro e trovarlo bellissimo, e in realtà non l'avevo apprezzato quando dovetti leggerlo perché imposto. 44% sono quelli che hanno avuto questa esperienza. Continuate a votare su www.radio24.it, poi il risultato finale verrà come al solito condiviso nel GR delle 13. Intanto Marzia Corraini, l'organizzatrice del Festival della Letteratura, qui continuano ad arrivare sollecitazioni, lei ne faccia un po' quello che vuole, ma le dico che vorrebbero veder ristampato Un anno sull'altopiano e distribuito in 30.000 copie e L'ultimo dei giusti. Marzia, I titoli sono veramente tantissimi, anche noi siamo sempre molto combattuti nel momento della scelta, perché ci sono possibilità infinite, poi ci sono delle questioni pratiche proprio da risolvere, ma sicuramente terremo conto anche delle indicazioni che ci vengono date dai vostri ascoltatori, perché vuol dire che c'è interesse. Posso darne una io? La nostra, proprio nel proporre anche classici, sentivo i discorsi che stavate facendo, ha dimostrato questo, cioè l'anno di Yolanda nel Corsaro Nero, davvero nei bar si discuteva di questo, c'era qualcuno anche che chiedeva: ma chi è questa Yolanda della quale si continua a parlare in città? Cioè probabilmente sposta le cose un po' dal gossip quotidiano, come dire. Avete creato una comunità, una iniziativa straordinaria. È un obiettivo, devo dire, qualche volta succede in maniera più concreta, qualche volta meno, è comunque un tentativo che facciamo. Devo salutarla e ci ritroveremo, la ritroveremo, molti parteciperanno anche quest'anno al Festival della Letteratura di Mantova, che verrà seguita da Radio 24 e sabato 11 settembre alle 21 in diretta ci sarà uno speciale. Grazie a una delle organizzatrici, Marzia Corraini, grazie a Gianrico Caro Figlio, buona giornata. e grazie a Roberto Carnero. Grazie a voi. Oggi in studio, docente illuminato, ci ha dato qualche indicazione. Diamola anche noi, un titolo da ristampare. Io dico Cassandra, Christa Wolf. Ma Lussu mi sembra una buona indicazione, un anno sull'altipiano. Si accoda anche lui, dunque sì. Buona giornata a tutti e ci ritroviamo con 24 Mattino alle 7:15. Domani da Irene Zerbini un saluto.